Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sapete, il sistema delle banche dati, delle conoscenze condivise, delle informazioni che possono essere messe in rete o comunque a disposizione di chi combatte ogni giorno le infiltrazioni malavitose all'interno del tessuto sano dell'economia del nostro paese, è uno dei temi vitali, fondamentali. E ultimamente devo dire che tutti coloro i quali detengono comunque tessere di questo potere informativo stanno facendo di tutto per metterlo a disposizione di chiunque altro, con delle procedure, con delle regole, con delle attenzioni, ma comunque l'informazione, che è potere ed è conoscenza, finalmente viene allargata a chi vuole combattere le mafie. Tra questi protagonisti sul territorio ultimamente spiccano, devo dire il vero, le camere di commercio, che non a caso si sono recentemente incontrate proprio per discutere di come individuare e combattere al meglio queste infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale, come attraverso il registro delle imprese. Ed è per questo che noi ne parliamo con il direttore generale di Infocamere, il dottor Valerio Zappalà. Buongiorno Zappalà. Buongiorno dottore, buongiorno a lei. Allora, che cosa avete affrontato in questo simposio e quali sono le conclusioni fattive, materiali, pratiche alle quali siete giunti? Innanzitutto grazie dell'invito, dottore, perché per noi è un'importante occasione di dare evidenza di quello che stiamo facendo e degli impegni che stiamo assumendo. Il simposio era rivolto, era una tavola rotonda interna al sistema camerale, dal titolo Sistema Camerale per il Sistema Italia, proprio perché il sistema camerale si pone sempre di più a servizio del nostro paese, secondo un modello che prevede il presidio dei territori, l'individuazione di soluzioni condivise e attraverso una visione d'insieme che vuole in qualche modo portare sempre dei risultati concreti. All'interno di questi tre giorni, con tutti i segretari generali delle Camere di Commercio, abbiamo dedicato uno spazio e una tavola rotonda proprio legata al tema del rapporto del sistema camerale con il sistema della giustizia, quindi sfide e opportunità in questo senso. Il contributo che stiamo dando al sistema della giustizia è un contributo ampio, in quanto parte dal supporto all'implementazione del processo civile telematico, quanto riguarda la mediazione obbligatoria, che è un'altra riforma in corso, per arrivare proprio al tema più inerente alla chiacchierata di oggi, della lotta alla legalità. Ecco, e da questo punto di vista, che cosa mettete sul piatto? Cosa offrite, come registro delle imprese? Guardi, allora noi abbiamo due grandi iniziative. La prima, porta sotto il cappello della semplicità di accesso alle informazioni del registro imprese in un'ottica di trasparenza. In quanto la trasparenza vuol dire competitività, vuol dire competizione sana tra imprese del nostro tessuto, e quindi stiamo elaborando dei prodotti, in particolare cito il prodotto che si chiama Revisual. Perché Visual? Perché permette una navigazione visuale delle informazioni che sono all'interno del registro imprese. Quindi, mentre in passato occorreva in qualche modo scaricarsi delle singole misure afferenti a diverse società e fare poi dei collegamenti, per esempio tra soci e amministratori, in questa modalità visuale l'utente, che può essere il professionista, che può essere l'impresa, che può essere il singolo cittadino, può immediatamente visualizzare tutta una serie di informazioni e poi eventualmente, se lo ritiene opportuno, scaricare la misura di dettaglio che riporta tutto. Ecco, dottor Zappalà, diciamo che se vuole può farlo anche il sostituto procuratore o la polizia giudiziaria. Assolutamente. Ecco, perché poi assolutamente, tant'è vero che noi diciamo abbiamo presentato questo prodotto in diversi incontri sul territorio con le procure, ma tra l'altro c'è stato anche oggetto di una serie di protocolli con la Direzione Nazionale Antimafia, esatto, con il dottor Grasso, abbiamo incontrato anche il dottor Cirillo del gruppo Interforze di Polizia, perché sono degli strumenti che in qualche modo assolutamente facilitano e semplificano e soprattutto velocizzano il compito di questi organi inquirenti nella misura in cui vogliono andare a verificare certe situazioni. Eh sì, anche perché per loro, voglio dire, il tempo è veramente non solo denaro, ma vuol dire caccia ai capitali sporchi molto spesso, no? Esattamente. Tra l'altro diciamo, abbiamo avuto anche diciamo, notizia da alcuni procuratori con cui collaboriamo che questo strumento è stato da loro fattivamente utilizzato ed ha portato dei risultati concreti. Oh, bene. Quindi questo per noi è veramente un vanto e un certo, è una medaglia sicuramente su questo cammino di legalità. Io ringrazio il dottor Valerio Zappalà, direttore generale di Infocamere, per questa chiacchierata. Dico grazie in regia a Paolo Corleoni, in studio a Laura Fagini, ma vi ricordo il mio blog, lo sapete, tratto di criminalità organizzata, di economia criminale ormai da anni, si chiama Guardie o Ladri, e la nostra mail alla quale segnalare storie di mafia ed antimafia ed è sottotiro@radio24.it. Da Roberto Calullo una buona giornata.